Una busillaga d'argento blu, e a luna, e a luna sapete che fa, se scorda che a luna e se mette a parlare. Nessuna sente quando parla luna, ma innamorate sì, parla d'amore so parole dolce, che innamorate a forza n'ha capì. Sentimentale a luna Napoli va fa con mare a chi se va scusa. Guarda Napoli.